So let us start with the additional meditation instructions. This morning we shall explain in detail, or give in detail the instructions for the sitting meditation, for the walking meditation, for mindfulness in general activities, and also we will say a few things about the interview, and then finally there will be a few remarks on balance practice. Allora iniziamo questa sessione di istruzioni per la pratica. Quindi questa mattina saranno date istruzioni dettagliate riguardo alla pratica seduta, alla pratica camminata, a come mantenere la consapevolezza nelle attività quotidiane in generale, qualche indicazione su come svolgere i colloqui con l'insegnante, e alla fine saranno fatte alcune osservazioni riguardo a come ottenere una pratica equilibrata. And the instructions will be based on the Mahasi, the instructions given by the Venerable Mahasiddhanta of Burma. E quindi queste istruzioni saranno basate su quelle fornite dal maestro birmano Mahasi Sayadaw. Now, as for the sitting meditation, kindly assume a sitting posture that you can maintain well and comfortably over a longer period of time. Per quanto riguarda la postura, dovreste cercare di sistemarvi in modo tale da poter mantenere la posizione per un periodo di tempo piuttosto lungo, insomma, almeno per la seduta, almeno per un'ora. So you can either sit in full lotus if your body is flexible enough for this. However, this is not a must. Allora potete sedervi, intanto precedentemente ho detto di trovare una posizione comoda e a proprio agio, non ho dimenticato di tradurre. Allora potete sedervi in una posizione di pieno loto, se ci riuscite, se il vostro corpo è abbastanza flessibile, ma questo non è una cosa obbligatoria. And certainly then, as an alternative to the full lotus posture, you could consider sitting in half lotus, which means placing one foot on the opposite thigh. O in alternativa potete sedervi nella posizione del mezzo loto, che consiste nel mettere il piede, appoggiare il piede sulla coscia della gamba opposta. And so what you could consider doing is that during one sitting you have one foot on the opposite thigh, and then during the next sitting you alternate the position of your legs. Potete anche alternare la posizione del piede sulla coscia, quindi in una seduta mettere un piede sulla coscia opposta, la seduta dopo cambiare piede, ovviamente cambiare coscia. And in this way your legs will be utilized equally. In questo modo le vostre gambe saranno usate in maniera equa, sì, allo stesso modo. Then, should sitting in the half lotus posture prove to be difficult, never mind, there's still an alternative, namely to sit in the so-called Burmese posture, which means you place one foot certainly in front of the other, without the legs certainly intertwining. Se non riuscite a mantenere la posizione del mezzo loto, non c'è problema, c'è ancora un'alternativa, che è quella di sedervi nella posizione cosiddetta birmana, che consiste nel mettere un piede davanti all'altro senza che le gambe si intreccino o si incrocino. And then again, during the following sitting, you can change the position of your legs. E anche qui, nella seduta successiva, potete cambiare la posizione delle gambe, quindi alternare la gamba che sta davanti e quella che sta dietro. Now, you know, should certainly even this posture, you know, prove to be, you know, somewhat difficult for you, you know, then you could consider it, you know, as some, you know, are, you know, actually doing, you know, to sit on a small bench. Se anche questo dovesse essere difficile per voi, potete considerare la possibilità di sedervi, come molti stanno già facendo, su un panchetto. And so that usually is certainly kind of easy for the knees. Questo di solito va meglio per le ginocchia. And so then for those who suffer from, you know, some chronic back problems, who've had, let's say, some accident and back serious back injury, do feel free to sit on a chair, but kindly do so without leaning against the backrest. Per chi ha avuto problemi di schiena, chi è vittima di un incidente o di qualche danno alla schiena, allora sentitevi liberi di sedervi su una sedia, però se lo fate non appoggiatevi allo schienale. The reason for not leaning against the backrest is, you know, a certain, you know, amount of physical, you know, effort is necessary, you know, to, you know, you know, to develop our meditation practice. If you lean against the backrest, then that physical effort will be missing, and as a result of this, you might easily fall asleep sooner or later. Il motivo di questo, del non appoggiarsi allo schienale, è che per la pratica è necessaria una certa quantità di sforzo fisico. E se vi doveste appoggiare, questo sforzo fisico potrebbe venir meno e quindi potreste essere vittima di sonnolenza. And so, briefly, one more remark about that, sitting in a full lotus posture. Of course, this would be the ideal, but most people in the West cannot do it. And what's the use of sitting in the full lotus posture if after 5 minutes or 10 minutes you end up with excruciating pains and then you can't meditate properly anymore? Ancora una parola rispetto alla posizione in pieno loto. Ovviamente questa è la posizione ottimale, ma è molto più facile per gli orientali, è quella più usuale in Oriente, ma che senso ha sforzarsi di mettersi in questa posizione per poi passare la seduta con dei dolori lancinanti che impedirebbero poi la meditazione? Voilà. Then, in terms of your breathing, in terms of the position of your hands, you could place your hands either on the two knees or in between the two knees, or you place one hand on the palm of the other, and then or on the inner side of the other hand, and then you place it on your lap. Per quanto riguarda la posizione delle mani, possono stare o sulle ginocchia, oppure in mezzo alle ginocchia, in questo modo, oppure le potete mettere una sul palmo dell'altra nel grembo. And then the position of our hands, the so-called mudra, at least from a Vipassana point of view, is not being attached with too much importance. The main thing is the development of wisdom, and this happens whether you keep your hands like this or like this or like that. Quindi la posizione delle mani, chiamata anche mudra, nella pratica di Vipassana non è così, non riveste tutta questa importanza. Nella Vipassana si cerca di sviluppare la saggezza, e la saggezza si sviluppa che le mani siano sulle ginocchia o in mezzo alle ginocchia o piegate in grembo. Okay, then there is still one more point that I forgot to mention with regard to the sitting posture. In order to maintain an upright posture and also to relieve your tension, muscular tension on the thighs and on the knees, what you could consider is to take a cushion or two, place those underneath your buttocks, and raising the buttocks off the ground a little bit really helps at the beginning. And then if you find that you don't need two cushions anymore, then you remove one and you just sit with one cushion. And so who knows, sooner or later even that one cushion may be not necessary anymore. Allora, un'altra cosa riguardo la posizione seduta, sempre per mantenere la spina dorsale eretta, può essere una buona idea mettere sotto i glutei uno o due cuscini, e questo aiuterebbe a alleviare la tensione nelle cosce e nelle ginocchia. Quindi potete cominciare con un paio di cuscini e poi successivamente magari toglierne uno, e con il tempo potrebbe essere che non abbiate più neanche bisogno di quell'uno. Then, when we sit in meditation, we try to do so with an upright posture, so the back is more or less at a 90 degree angle to the ground. And the reason for this is, if we sit in a slouched manner, then this could lead to sleepiness, and it could interfere with our breathing. It may hinder the digestion, and it may also have an impact on the urinary tract system. Allora, è importante anche mantenere una posizione eretta, e questo vuol dire tenerla ad un angolo di 90 gradi rispetto al pavimento. E questo ha una serie di vantaggi. Il primo è quello che first one is breathing. Sì, aiuta nel processo del respiro. Oh, and then also sleepiness. Ah, ecco, forse la prima era questo. Se non si mantiene la posizione eretta, il fatto di piegarsi in avanti o di lato può indurre alla sonnolenza. Quindi questa è una cosa da evitare. Poi può interferire anche con la digestione, può interferire con tutto il sistema urinario, e credo di aver detto tutto, e facilita comunque il processo del respiro, quindi l'attenzione sul respiro. Okay, then in terms of when we sit, we keep our eyes closed, and we keep the breathing natural, which means at times the breathing may be a little bit faster, okay, then we just observe it that way, or at other times the breathing may be somewhat slower, and we just let it happen and we just observe it that way. Poi meditiamo con gli occhi chiusi, mantenendo l'attenzione sul respiro, e il respiro deve essere naturale. Questo vuol dire che a volte il respiro potrà essere più veloce e noi lo osserviamo come respiro veloce, altre volte più lento lo osserviamo così com'è. Now, in the Mahasi tradition of Vipassana meditation, the primary object of observation is your rising movement and falling movement of the abdomen. Quindi nella tradizione di Vipassana di Mahasi, l'oggetto primario di osservazione è l'addome che si alza e si abbassa. And so, when when the abdomen rises, then we take this as an object, and mentally we briefly label it as rising or rise in your mother language or tongue, and you try to observe that rising movement as best as possible from its very beginning until its very end, and you try to know the nature of the rising movement, and especially in terms of sensations. Allora, quando osserviamo il movimento dell'alzarsi, allora lo etichettiamo mentalmente, mettiamo un'etichetta mentale, ovviamente nella propria lingua, quindi alzarsi, e cerchiamo di seguire il processo dall'inizio fino alla fine. E questa osservazione la facciamo soprattutto in termini di sensazioni che proviamo nell'alzarsi dell'addome. And then, when the falling movement of the abdomen occurs, we direct our attention to it, we label it briefly with a mental, silent mental label, and then, again, we try to observe it from its very beginning through the middle until its very end. E lo stesso vale poi per il movimento di abbassarsi dell'addome, quindi noi lo osserviamo dall'inizio, poi nel mezzo e poi fino alla fine. Lo etichettiamo e cerchiamo di conoscere la natura, la sua qualità. So, for instance, the nature of the falling movement could be at first a certain relaxation is taking place, and then this might be followed by a contraction at the end of the falling movement. Per esempio, la natura di un movimento di abbassarsi dell'addome potrebbe essere un rilassamento iniziale e poi una tensione verso la fine del movimento. Now, when observing the rising movement or fawning movement of the abdomen, as well as any other predominant bodily or mental object, and then there are a few basic basic aspects that are important to keep in mind. Namely, those are the occurrence of the object, so to know which object is or has arisen. And then, secondly, the labeling of the respective object. Then, also the observation of that object. And then finally, knowing the nature or the qualities, the characteristics of the object. E quindi quando osserviamo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome o qualsiasi oggetto sul piano fisico o su quello mentale, ci sono alcune cose da fare, insomma, alcune cose da tenere presente. Allora, intanto il sorgere dell'oggetto, cioè capire qual è l'oggetto che è sorto. The second was the labeling. Yes, right. Occurrence, labeling, observation. Quindi il secondo momento è questa etichetta mentale, quindi nominare mentalmente l'oggetto che è sorto. Il terzo è l'osservazione di questo oggetto, seguito dalla comprensione della sua natura e della sua qualità. So, as mentioned already last night, the maxim for the meditation practice is always label, observe, and know the most predominant object that occurs in the body and or in the mind. Come abbiamo già detto ieri, quindi la massima, diciamo, per la meditazione, la frase da tenere a mente è che ogni oggetto che sorge nella mente o nel corpo etichettata, poi osservata e conosciuta. And so we start with the observation of the rising falling movement of the abdomen, and then we take it from there. Quindi cominciamo con l'osservazione dell'alzarsi e abbassarsi dell'addome e poi andiamo avanti da lì. Now, to give you an example, while we are observing the rising and falling movement of the abdomen, sooner or later a pain arises in the knee. In this case, we focus our attention onto the pain, and then we have the occurrence of the pain, and then we label the pain as pain, and then we try to observe it as best as we can, and we try to know its nature. Allora, prendiamo per esempio una situazione in cui siamo sull'addome, ma sorge un dolore. Allora, a questo punto noi spostiamo la nostra attenzione al dolore, e allora c'è intanto il sorgere del dolore, quindi viene subito notato quello, poi viene etichettato come dolore, viene osservato attentamente e infine viene conosciuto nella sua natura. So, in the case of pain or any other predominant bodily sensation, there are four basic observational character or aspects that you could pay attention to. Namely, number one, what's the quality of the pain? What kind of pain is it? There's such a great variety of pains around. Allora, per quanto riguarda gli oggetti a livello fisico, che sia un dolore o un'altra sensazione fisica, ci sono quattro aspetti che vanno colti. Allora, il primo è l'aspetto della qualità, per esempio, un dolore, che qualità ha? Che tipo di dolore è? E ci sono tanti diversi tipi di dolore. So, it could be a stabbing pain, it could be a burning pain, or it could be a tearing pain, or it could be a hard pain, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere un dolore pungente o un dolore bruciante, potrebbe venire come uno strappo, per esempio una lacerazione, eccetera, eccetera. And suddenly then, secondly, you know, you could suddenly pay attention to the intensity of the pain. So how's this certain object behaving? Is it intensifying while you're observing it? Or is it de-intensifying? Or is the intensity staying the same? La seconda caratteristica da osservare è l'intensità. Quindi chiedersi, ma il dolore sta aumentando di intensità, oppure sta diminuendo, oppure rimane sempre uguale? Then, in terms of the location of the pain, is your pain arising in one spot and suddenly staying there, or is your pain arising and suddenly spreading out over a larger area, or is your pain arising in one spot and then moving around, maybe in a zigzag line or in different ways? Quindi il terzo aspetto è quello della localizzazione del dolore. Quindi il dolore sorge in un certo punto, poi occorre notare se rimane in quel punto o se in qualche modo si diffonde in un'area più grande, oppure addirittura se si sposta, e se si sposta che direzione prende, si muove a zigzag oppure in linea retta, per esempio. And so then, in terms of time, how is our pain or other sensation behaving? So there are certain pains that may last for the entire sitting. So that would be a long-lasting pain, or else it could be that a pain is lasting maybe just a couple of minutes, or a pain might last just a few seconds, or even less, maybe just a few moments. Whatever it may be, just know it. Il quarto parametro, diciamo, è quello del tempo, della durata. Quanto dura questo dolore? Potrebbe durare tutta la seduta, oppure anche solo qualche minuto, o addirittura qualche attimo. Now, when dealing with the pain, be sure to be as patient as possible. And try not to change your sitting posture right away, as soon as the pain gets a little bit uncomfortable. Since if you were to change your posture every now and then, it will break your concentration. It will make it difficult for concentration to develop. Quando si osserva un dolore è molto importante mantenere un atteggiamento paziente e soprattutto non muovere il corpo, non cambiare posizione appena il dolore comincia a essere un po' fastidioso o insopportabile. Questo perché se si cambia spesso la propria postura, questo può interferire con lo sviluppo della concentrazione. È difficile che la concentrazione cresca con un corpo che si muove più volte. And suddenly then, what suddenly you will find is with certain meditation practice, then suddenly gradually your ability to endure pains will improve. And so a pain that at first, at the outset of the retreat, seemed like really terrible, later on then is just peanuts. Quello che scoprirete durante il ritiro è che aumenterà la vostra capacità di sopportazione del dolore. Un dolore che all'inizio del ritiro sembra insopportabile, con l'andare del tempo o verso la fine del ritiro vi sembrerà una sciocchezza. And certainly, even though we've said trying to stay with the pain as best as you can, however, should a pain really become excruciating, you're close to tears, you really can't take it anymore, you have serious concerns about your health, let's say your knees and so on, then do feel free to change your posture, but do this mindfully and slowly. Quando però abbiamo detto di cercare di restare con il dolore il più a lungo possibile, ma se il dolore dovesse diventare veramente fortissimo, insopportabile, lancinante, Allora, oppure se dovessero sorgere delle preoccupazioni rispetto al vostro stato di salute, per esempio se un ginocchio comincia a dolere fortemente, allora sentitevi pure liberi di spostarvi, di cambiare la postura, ma fatelo in maniera molto consapevole e molto lenta. So, once a pain has disappeared, then we resume observing the rising falling movement of the abdomen. Quando un dolore se ne va, allora si torna a osservare l'addome che si alza e si abbassa. And so, then when the rising occurs, we label this, we observe it, we try to know its nature, and the same thing for the falling movement. E quindi torniamo ad osservare l'alzarsi, a etichettare l'alzarsi, osservarlo, conoscere la natura, e lo stesso vale per la discesa dell'addome. Then, while we are observing the rising and falling movement of the abdomen, it certainly may happen that our mind certainly goes off thinking. And certainly in this case, we could take the thinking or the wandering mind, as it is also called, as the next certain object of observation. And so the occurrence of the thing or the thinking that is occurring, this is your occurrence. And certainly then we label it as thinking, or wandering, or if it's planning, then we could certainly label more specifically as certain planning. If it's certain remembering, then we could label this specifically as remembering, and so on. And certainly then we observe the thinking as it is certainly happening, and we try to know its nature, and eventually when it passes away, we go back to the observation of the rising and falling movement of the abdomen. Mentre siamo sull'addome, potrebbe capitare che la mente comincia a pensare o a divagare, come a volte si dice, e quindi a quel punto noi possiamo prendere il pensare o il divagare come nostro oggetto di meditazione. Allora, di nuovo c'è il sorgere dell'oggetto, poi la mente si direziona lì e c'è l'etichettare l'oggetto. Allora, potete etichettarlo come pensare semplicemente, oppure come programmare, se questo è il caso, o come ricordare, se state ricordando, e via di seguito. Dopo averlo etichettato, di nuovo c'è la fase di conoscenza, quindi cercate di conoscere la natura di questo pensare o divagare, e poi tornate al vostro oggetto primario, cioè all'addome. And so should the thinking not subside right away, and so it goes on for a little bit longer, then kindly continue to observe it, and let's say for another few seconds or so, and then if it still doesn't disappear, then simply cut it off, let go of it, and then return to the observation of your rising and falling movement of the abdomen. Quindi se questo pensare continua e non, come dire, non si interrompe, allora continuate a osservarlo per qualche minuto e poi cercate di tornare comunque all'oggetto primario. Se continua ancora l'attività del pensiero, allora a quel punto date un taglio netto al pensare e tornate all'oggetto primario. And certainly in the context of the thinking, it's really important that as a meditator we do not get entangled in the content of our thoughts. And this easily happens. We, especially at the beginning, we think the thinking is so important. We may think that we need to act on every single thought, but there's no need for this whatsoever. Per quanto riguarda questo aspetto del pensare, è molto facile di essere intrappolati dal pensare, soprattutto all'inizio. Uno può pensare che sia fondamentale, sia molto rilevante continuare l'attività del pensiero o portare avanti il pensiero, ma questo non è assolutamente il caso all'interno di una pratica di meditazione. Ecco, scusate, ci si diventa invischiati nel contenuto del pensiero. Sì, right. So, the rising and falling movement of the abdomen is just an object. A pain is just an object. Heat is just an object. And thinking is also just another object. and so your thinking comes and goes. It's not, your thinking is like a soap bubble. It forms and it pops. E quindi l'addome è solo un oggetto, il dolore è solo un oggetto, il calore è solo un oggetto. Allo stesso modo anche il pensiero è solo un oggetto ed è un po' come una bolla di sapone che si forma e poi scoppia. And certainly when you observe the thinking, you might certainly find that a thought arises, and then you observe it, but maybe not 100% mindfully, and then one thought leads to another thought, and it then turns into a train of thoughts. And then 5 minutes go by, 10 minutes go by, and you're totally lost in thinking. Quello che succede con il pensare è che sorge un pensiero e se uno non è consapevole in quel momento è facile che quel pensiero conduca poi ad un altro pensiero e poi a un pensiero successivo, allora si ha tutta una serie di pensieri concatenati e questa attività può andare avanti anche per diverso tempo, per 5-10 minuti e senza che ve ne accorgiate siete completamente persi in questo pensare. So, try to catch the thinking as certain quickly as possible. At first it may take a couple of minutes, but work on this, and later on you will see, as your mindfulness will get sharper and sharper and sharper, a thought may be just about to form, and your mindfulness is right there, and the thought will not even form fully anymore. Quindi cercate di cogliere il pensiero nel momento in cui nasce e scoprirete con l'andare del tempo, con lo svilupparsi della consapevolezza, che riuscirete con questa consapevolezza sempre più acuta a cogliere sempre meglio la nascita di un pensiero. Potreste arrivare anche a cogliere il momento precedente al sorgere del pensiero, no. Quindi prima che nasca. Now, probably the most vital factor for the positive development in our meditation practice is mindfulness, and in particular the continuity of it. Un fattore vitale per il progresso nella pratica è la consapevolezza, ma la continuità della consapevolezza. And certainly this means that you as meditators try to do everything improve this continuity of mindfulness in the course of one day, in the course of your entire retreat. E questo significa che voi come meditanti dovreste fare il possibile per mantenere costante questa consapevolezza, continua questa consapevolezza per l'intera giornata e anche per l'intero ritiro. So ideally one moment of mindfulness should be followed by the next moment of mindfulness, by the next moment of mindfulness, and so on for your entire waking hours. Quindi idealmente un momento, un attimo di consapevolezza dovrebbe essere seguito da un attimo di consapevolezza che a sua volta dovrebbe essere seguito da un altro attimo di consapevolezza e così di seguito per tutte le ore in cui siete svegli. Now, apart from the continuity of mindfulness, there are some other factors that are also very important for our work of observing and knowing what's going on, and those factors are proper aiming of the mind. So the mind needs to be well aimed at the respective object that has just arisen, and then secondly, with effort we propel the mind towards the object, and then when these two aiming and effort are present, then the mind, the observing mind, will be rubbing the object. So these three factors also are very important for meditators. Quindi oltre alla continuità della consapevolezza ci sono altri tre fattori che sono fondamentali per il progresso della pratica. Allora il primo è quello della mira, cioè la mente deve essere diretta all'oggetto e deve cogliere l'oggetto in maniera precisa, quindi deve essere mirata sull'oggetto. Il secondo aspetto è lo sforzo, il giusto sforzo, che vuol dire spingere la mente verso l'oggetto in modo che arrivi con la giusta forza sull'oggetto. E il terzo aspetto è invece quando ci sono questi due, quindi quando la mente è ben mirata, quando c'è lo sforzo per raggiungere l'oggetto, allora la mente comincia a sfregare l'oggetto, per così dire, cioè è completamente a contatto con l'oggetto. And then in terms of the objects that we need to observe, the rising and falling movement of the abdomen is one, and then as mentioned, if some pain arises, predominant pain, then we observe that. If the thinking or if some other predominant sensations occur in the body, like heat or hardness or pressure, then we observe the respective sensation. Per quanto riguarda gli oggetti da osservare, allora c'è a parte l'addome, che è l'oggetto primario, poi può esserci un dolore che sorge, e poi qualsiasi altra sensazione fisica predominante, che può essere per esempio una sensazione di calore o una pressione, una tensione nel corpo. And certainly we could on occasion also pay attention to our sitting posture. Even there, differences will be there. At times we'll be sitting perfectly upright, at other times the body might be slouched, at other times the body might be leaning one way or another, at other times the body may be circling, and so on and so forth. So just whatever happens, know it. Un altro oggetto di osservazione può essere la postura, la posizione del nostro corpo, perché anche questa può essere varia. Potremmo essere seduti eretti, oppure potremmo essere un po' incurvati o piegati da una parte, o il corpo può leggermente roteare. Anche questo può essere preso come oggetto di osservazione. Then, in terms of mental objects, under this category come all of our predominant mental states. So when joy arises and then happens to be predominant, we focus our attention on it, we label it, we observe it in a non-attached manner, and we try to know its nature. Once it has disappeared, we go back to rise and fall. If, let's say, anger arises, then the anger becomes the next object of observation, and then we label this, and then we observe it in a non-reactive manner, and we try to know its nature. Once it has disappeared, then we go back to our rise and fall. Per quanto riguarda gli oggetti nella sfera mentale, diciamo gli oggetti mentali, allora questi sono tutta la serie di stati mentali che possono sorgere. Allora, allo stesso modo come per gli oggetti fisici, se sorge per esempio della gioia, allora notiamo la gioia, la osserviamo in maniera distaccata e poi cerchiamo di comprenderla nella natura. Quando la gioia sparisce si ritorna all'addome. E lo stesso vale per esempio per un altro stato mentale come la rabbia. Di nuovo notiamo il suo sorgere, l'etichettiamo come rabbia, cerchiamo di osservarla in maniera distaccata, di conoscerla nella natura e poi tornare all'addome. Now, when we observe a physical or mental object, we might, after a while, discover that this object has a certain feeling quality to it. Not in terms of an emotion, but rather in terms of having a pleasant or unpleasant or neutral quality to it. So, when that feeling aspect becomes predominant, then we could focus our attention on this and try to know its nature. Allora, quando osserviamo un oggetto fisico mentale, può capitare che notiamo che è accompagnata da una certa sensazione, ma non in termini di un'emozione, più in termini di una reazione rispetto all'oggetto di piacere o non piacere o di neutralità, cioè l'oggetto o ci piace o non ci piace o siamo neutrali. Allora, in questo caso, allora si prende quella sensazione come nostro oggetto di osservazione. Then, in terms of objects occurring at the sense doors, we have the eye door, so the seeing process, there's the hearing process, there's the smelling process, then there's the tasting process, then tactile impressions are there, and mental impressions are there. So if one object, one or the other sense door process becomes predominant, like mentioned yesterday, the hearing process or maybe the seeing process, then we take that that as an object of observation. We label it accordingly as hearing, hearing, seeing, seeing, smelling, smelling, whatever. And suddenly then, we observe it suddenly as best as we can, and we try to know its nature. Once it has disappeared, we go back to the observation of the rise and fall. Altri oggetti possono essere i processi che avvengono a livello delle porte dei sensi, quindi c'è il processo visivo, quello uditivo, olfattivo, gustativo, il processo tattile e il processo che viene alla porta della mente, il processo mentale. Allo stesso modo, quando la mente dirige la propria attenzione verso questi processi, vengono presi come oggetti di osservazione, quindi di nuovo si etichettano come udire, udire, vedere, vedere, gustare, gustare, si cerca di conoscere la natura e poi si torna all'oggetto primario. Voilà. Maybe this much for the explanations on the sitting meditation. Now the instructions for the walking meditation will follow. Ecco, adesso questo dovrebbe essere sufficiente per quanto riguarda la meditazione seduta. Adesso seguiranno delle istruzioni invece per la meditazione camminata. Now, the walking meditation is as important as the sitting meditation. The Buddha himself and certainly his monastic disciples practice not just sitting meditation, but they also have been recorded as certainly having practiced walking meditation. La meditazione camminata è altrettanto importante quanto la meditazione seduta. Sia il Buddha che i suoi discepoli, come scritto nelle scritture, praticavano sia la meditazione seduta che quella camminata. Now, especially for beginning meditators during the first few days, we try to spend an equal amount of time in sitting meditation and walking meditation. Quindi all'inizio, soprattutto per i meditanti principianti, diciamo, quelli che sono appena arrivati, cerchiamo di utilizzare lo stesso tempo per le meditazioni sedute che per le meditazioni camminate. Now, in terms of walking meditation, there are classically mentioned three forms. The first one is as our right leg moves, we label this as right step, and then as the left leg moves, we label this as left step. So right step, left step, right step, left step. Allora, la camminata può essere divisa in fasi. Nella prima fase noi etichettiamo le gambe che si muovono, quindi passo destro, passo sinistra, destro, sinistro. No. While we do this first form of walking meditation, our field or potential field of objects is the entire leg. So let's say if predominant sensation occurs in the thigh while we're doing the walking meditation, then we focus our attention on this and we try to observe it and know its nature. In questa prima forma di camminata, il campo di osservazione è l'intera gamba. Quindi se sorge una sensazione predominante, per esempio sulla coscia, allora noi focalizziamo l'attenzione sulla coscia e cerchiamo di comprendere l'oggetto che è sorto in quel luogo. Now, this first type of walking meditation we do at a speed slower than our normal, ordinary walking. Allora, questo primo tipo di meditazione camminata lo facciamo ad una velocità più bassa rispetto a quella della nostra normale camminata. Now, after maybe about 20 minutes of walking meditation, doing a right step, left step, we then, during the next 20 minute period, we slow down our walking. This time, we divide one step into two parts, namely the lifting process and the lowering and sudden placing of the foot. Poi questa prima fase può andare avanti per una ventina di minuti, dopodiché cambiamo il tipo di osservazione e ci focalizziamo sul piede, dividiamo il passo in due parti e etichettiamo l'alzarsi e l'abbassarsi del piede. Yes. and having labeled as lifting, then we carefully observe the different sensations that are occurring while we're lifting the foot, and we try to know those sensations. Quindi dopo aver etichettato o mentre etichettiamo sollevare il piede, allora a quel punto cerchiamo di notare nei dettagli e di nuovo capire la natura delle sensazioni del piede mentre si alza dal pavimento. And certainly, for the process of lowering and placing the foot on the ground, it's the same thing. At first, we label it as lowering, just once, and certainly, we slowly lower the foot. And as we're lowering the foot, we try to observe the most predominant sensations in the foot. And also, when the foot is touching the ground, we keep observing. E lo stesso vale poi per quando appoggiamo il piede, allora etichettiamo una volta sola, magari abbassare, e poi stiamo molto attenti a tutto il processo di abbassamento del piede, tutte le sensazioni che l'accompagnano, e poi anche quando il piede tocca il pavimento o il terreno, le sensazioni che seguono. No, for this second type of walking meditation, our field of objects is no longer the entire leg, but rather it is limited to the area of the foot itself, so from the tip of the toes up to our heel. Any predominant sensation that occurs in the foot, in the sole of the foot, or on the back of the foot, in the foot itself, can be taken as an object of observation. So up to the heel? Not to the heel. Including from... Okay, up quindi... to the ankle. Sì, allora, in questo secondo tipo di, questa seconda parte della camminata, il nostro raggio di osservazione, diciamo, il nostro campo di osservazione non è più l'intera gamba, ma è il piede, e quindi è tutte le sensazioni nel piede, e quindi si va dalla punta del piede, scusate, dalla punta delle dita dei piedi fino a, diciamo, al tallone, oppure anche un po' alla caviglia. Quindi se sentite qualsiasi sensazione anche sul dorso del piede, per esempio sulla pianta del piede, allora è quello il nostro oggetto di osservazione, quello il nostro campo. During the next 20 minutes period, we slow down our walking meditation even further, and now we divide a step in three parts, namely the lifting of the foot, the forward movement of the foot, or the gliding if you like to, and then the lowering and placing of the foot. And this is, like I said, it's done even slower. E nella terza fase della camminata rallentiamo ancora di più, quindi è fatta molto lentamente, e qui il passo viene diviso in tre fasi, quindi c'è l'alzarsi, sollevarsi del piede, poi c'è l'avanzare del piede e poi l'abbassare del piede che è l'appoggio. And then again our campo di oggetti, our field of objects, is certainly the foot itself, so we focus our attention on the most predominant sensation that occurs in the foot. Anche qui il nostro campo di oggetti di osservazione è il piede stesso, e quindi prestiamo attenzione a tutte le sensazioni che sorgono nel piede. So the lifting and the lowering of the foot has been explained already. What remains is just the middle portion, and so at the beginning of the forward movement we briefly label as forward movement or gliding as you like, and then we carefully observe that forward movement, and we try to know the most predominant sensations that occur during this process. Quindi il movimento dell'alzarsi e l'abbassarsi del piede sono già stati spiegati, rimane questo passaggio intermedio del piede che avanza. Allora anche in quel caso noi etichettiamo l'inizio del processo, quindi quando il piede inizia ad andare avanti, e poi notiamo, lo etichettiamo una volta sola, e poi notiamo tutte le sensazioni che accompagnano quel movimento dell'avanzare del piede. Now, when you do your walking meditation, please try to keep your body as upright as possible. And then some times it happens that beginning meditators, they kind of look down and their feet and trying to figure out what the feet are doing. This is not necessary. Focus your attention at a point maybe 3 to 4 meters ahead of you. Allora, quando fate la camminata cercate di mantenere una posizione eretta. È facile, soprattutto nei principianti, guardarsi i piedi, ma questo non è assolutamente il caso, non è necessario. Cercate di tenere lo sguardo davanti a voi a 2 o 3 metri di distanza. And if you keep your head set, or if you keep looking at your feet, then you do this over a longer period of time, then sooner or later you might end up with some stiffness developing in your neck, and this could be become very uncomfortable. Se continuate a guardarvi i piedi mentre fate la camminata, questo potrebbe risultare in una rigidità nel collo. E questa è una cosa che porta grande disagio. And then keep your hands either in front of the body or behind your back, but definitely please do not let your hands swing along as you would normally do in ordinary walking. Tenete le mani o davanti a voi o dietro di voi. Quello, una cosa da evitare è quello di dondolare le braccia ai lati del corpo, come normalmente si fa quando si cammina. No, and there is a general maxim for the walking meditation, and later on we will see also for the general activities, namely, the more you slow down, the slower you do your walking meditation, the more development you will have in your meditation practice. And it's not the other way around, the faster you go, the faster you will progress. C'è una massima, si può dire così, un detto, una formula, ecco, che vale sia per la camminata che per le attività quotidiane, ed è che più è lenta la camminata, o più sono lente le azioni, e più è veloce il progresso nella pratica, e non il contrario, come uno potrebbe pensare. Quindi più rallentate e più andrete veloci nel progresso. Now, in the walking meditation, but also for the general activities, restraint of our senses, so in particular the eyes and the ears, is really important. So even though we have eyes to see with, please do not unnecessarily look around, look here and there. This will clearly distract the mind, and it will be difficult then to observe and know what's actually going on. Una cosa importante sia per la camminata che per le attività quotidiane è quella di controllare i sensi, soprattutto la vista e l'udito, quindi anche se abbiamo gli occhi per vedere, però durante un ritiro è meglio non guardarsi intorno, perché questo può creare una grande distrazione nella mente, può impedire lo sviluppo della concentrazione. Now, maybe this much for the mindfulness in just how long they have the path. Yeah, that's a good point. So, in terms of the length of the path, you don't need an extremely long stretch. Maybe 5 meters, 10 meters or so is quite enough, or 20 meters, and then mindfully you just walk along this path up and down. And the difference between ordinary walking and mindful walking is that in ordinary walking we want to get somewhere, we want to reach a certain destination. In mindful walking meditation that's not relevant whatsoever. But rather we try to be mindful of whatever predominant sensations come up. Allora, per quanto riguarda lo spazio della camminata potete scegliervi un percorso da 5, 10 o 20 metri, ma non deve necessariamente essere molto lungo, e poi andate avanti e indietro lungo quel percorso. La differenza tra il camminare ordinariamente e fare una camminata invece meditativa o consapevole è che normalmente noi camminiamo per raggiungere un determinato luogo, abbiamo una meta da raggiungere. Invece nella camminata consapevole questo non è il nostro obiettivo, non è il caso, e qui noi vogliamo sviluppare appunto la consapevolezza, essere attenti a tutti i fenomeni che accadono durante il processo. And so in the walking meditations, there's still one more point, namely, make sure that your path will not sadhana cross another person's sadhana path. It is well known, this easily creates sadhana, some friction among meditators. If another meditator starts walking across your path, sooner or later you'll have bad relations with that meditator. Un altro consiglio per quanto riguarda la camminata è di fare attenzione a non incrociare il percorso di un altro meditante. È risaputo che durante i ritiri, se questo accade, questo è un grande elemento di frizione tra meditanti, quindi prestate attenzione a dove camminate. In Asia it happens all the time, they don't seem to be they don't mind for the most part, but as far as I can see, Westerners don't like it too much. In Asia questo succede abbastanza spesso, sembra che non crei particolare disagio, però da quello che vede qui in Occidente invece gli occidentali dà molto fastidio che qualcuno gli tagli la strada. So regarding to the mindfulness and general activities, we try to be mindful from of all of our major activities from the moment we wake up in the morning until the moment we fall asleep. Per quanto riguarda le attività quotidiane, noi cerchiamo di essere attenti e consapevoli delle nostre azioni dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a dormire. So normally when we wake up we might jump up and or jump out of bed, but certainly here on retreat this changes, and we try to be mindful of this entire process of let's say the first thoughts coming into our mind, or the first sounds that we're hearing, and then gradually getting ready to get up, and suddenly then sitting up, and then gradually coming out of bed, and so on. Normalmente nella nostra vita quotidiana, appena ci svegliamo al mattino, saltiamo fuori dal letto per fare le cose che ci aspettano, ma durante un ritiro invece questo non avviene. Noi cerchiamo di essere consapevoli di tutto il processo del risveglio, quindi dai primi pensieri che sorgono, i primi suoni che arrivano, e poi di tutti i movimenti coinvolti, quindi del tirarsi su in posizione seduta, poi uscire dal letto e prepararsi per la giornata. So when you take a meal, please do so slowly and mindfully. When you take the juice in the evening or late afternoon, again try to do this mindfully. And then in the course of the day, when you take a shower, do this mindfully. When you brush your teeth, do this mindfully. When you use the bathroom, again apply as much mindfulness as possible. So mindfulness applies to all of our activities. E quindi anche quando consumate il vostro pasto, fatelo nella maniera più consapevole possibile. Quando prendete le bevande al pomeriggio, se doveste farvi una doccia, anche questa fatela in maniera consapevole e lenta, soprattutto tutto a rallentatore. Anche quando vi lavate i denti, quindi in poche parole tutte le attività della giornata, nessuna esclusa, deve praticamente essere fatta lentamente e in piena consapevolezza. To give you an idea to which extent we could certainly carry this certain mindfulness, well, our teacher, the Venerable Sarvapandita, on occasion stresses to be mindful of small process such as the opening and closing of the eyes. Per darvi un'idea di quanto si riesce poi a sviluppare questa consapevolezza così dettagliata, il venerabile Upandita della Birmania suggeriva addirittura di sviluppare la consapevolezza al punto di essere consapevoli dell'aprire e chiudere degli occhi, quindi la palpebra che va su e giù. Now, briefly, just a few the major points for the interview, namely, when you come for the interview, please come in time, be at the venue, maybe even shortly before the appointed time, and then be ready for the interview. Also, already know what you want to say. Some meditators, they come in and then only they start thinking about what they want to say. Qualche parola sui colloqui, quindi cercate di arrivare puntuali anche qualche minuto prima ai colloqui e soprattutto con le idee chiare rispetto a cosa dire nei colloqui. Sono alcuni meditanti che decidono cosa dire una volta che sono dentro la stanza. Then your interview starts already after good sitting or walking meditation. Write down your experiences. If you have a poor memory and you are not fortunate to have a computer memory, then I really recommend to write down your experiences. Allora, il colloquio verterà su una vostra esperienza di meditazione seduta e camminata e quindi il Venerabile vi consiglia, soprattutto se non avete un'ottima memoria, di scrivere su un quaderno o su un foglio, insomma, le vostre impressioni, la vostra esperienza, i dettagli della vostra esperienza. But please don't write down your experiences in the midst of a sitting, because this is going to disturb other meditators, people who making noise with the, flipping pages over. Sì, però questo non va fatto durante una seduta, ovviamente, perché questo può disturbare gli altri meditanti che sono seduti. Or some people are really adept at clicking with their ball pens. Alcuni sono molto, sì, cominciano a diventare un po' ossessivi rispetto alla, come dire, cliccare, diciamo, la penna biro, no? Far andare giù la punta della penna. And so, this may get your fellow one of your fellow meditators really impatient. Questo potrebbe rendere molto nervoso, impaziente i vostri compagni di meditazione. Now, when you write down your experiences, please try to do so in a chronological manner or sequential manner. Quando scrivete le vostre esperienze, cercate di farle in maniera cronologica o sequenziale. Then, when you come for the interview, please don't just race into the interview room, but do so slowly and mindfully. Quando entrate nella stanza dei colloqui, non fatelo affrettatamente, ma fate anche questo in maniera lenta e consapevole. Now, sometimes people ask about forms of respect for the interview. If you like to go like this, that's fine. If you don't want to show any form of respect, that's fine too. If you want to bow down, that's fine too, as you like. Alcuni mi chiedono quali sono le forme di rispetto nei confronti di un monaco durante i colloqui. Allora, se volete, potete giungere le mani in forma di rispetto, appunto, di saluto. Se invece volete non farlo, va benissimo lo stesso. Se volete, potete fare l'inchino, altrimenti no, come volete. Lynn, try to be short to the point when you give your report, and try to stick to the principles of accuracy, brevity and precision. Allora, cercate di andare subito al punto nella vostra relazione, cercate di seguire i tre criteri della accuratezza, la brevità e la precisione. Then, when you come to the interview, there's no need to get nervous in any way, and just see the teachers here right now, Beate and myself, later on Hannes will come as your friends. We're trying to help you as much as possible. We're not there to give you a hard time. Quindi quando andrete ai colloqui non, non fatevi prendere dall'ansia o dal nervosismo, c'è il Venerabile, c'è Beate come suo assistente, poi ci sarà Hannes, e prendeteli come degli amici spirituali che sono qui per darvi una mano, ovviamente non per crearvi delle difficoltà. Then, when you report, try to report on your best sitting, and if time permits, also on your best walking meditation. Then, frequently meditators ask, what is my best sitting and walking? Well, any sitting or walking that best reflects your overall practice. Let's say you've had a really difficult day, and there's one sitting that really nicely represents all your difficulties. Okay, report that. Allora, nel colloquio cosa dovete riferire? Dovete riferire su la miglior seduta della giornata e la miglior camminata della giornata. Ma molti chiedono qual è la miglior seduta, la miglior camminata. Allora, quella che meglio riflette lo stato della vostra pratica di quel giorno. Quindi se la vostra pratica sta attraversando dei momenti molto difficili e in una seduta c'è stata una concentrazione di difficoltà, allora quella è la vostra seduta migliore. So don't think you need to report only on just nice experiences. Meditation is not going to be always pleasant. Quindi non pensiate di dover riferire solo le belle esperienze, perché la meditazione non sarà sempre piacevole. Now, what else? When you give a report, would help if you mention which object occurred, so the occurrence, and then, as mentioned earlier on, whether you labeled an object or not, and then the observation of the object, whether you actually observed the object or not, and then what did you find out about the object, so the nature, knowing the nature of the object. Those four points. Allora, sarebbe molto utile durante un colloquio che voi riferiate il tipo di oggetto che avete osservato, quindi se siete riusciti a cogliere l'oggetto, se siete riusciti a etichettarlo mentalmente, se l'avete osservato e cosa avete conosciuto di quell'oggetto. To give you one example, you could say a pain occurred in the right knee, and then I labeled it as sudden pain, and I carefully observed it from start to finish, and suddenly then came to know that it was a burning pain, and gradually the intensity of the burning pain increased. Per farvi un esempio, voi potreste dire, ero seduta, ho sorto un dolore, l'ho etichettato come dolore, poi l'ho osservato nel miglior modo possibile, ho conosciuto la natura di questo dolore, ho visto che era un dolore bruciante e poi ho notato che l'intensità di questo dolore cresceva. Now, when you report, please use certain simple language, simple, straightforward certain language, and there's no need to use any Pali technical terms such as anicca, dukkha, anatta, and so on. Quando riferite la vostra esperienza, usate un linguaggio molto semplice, non è necessario usare, per esempio, termini Pali come anicca, dukkha o anatta. Then what else? When you give your report, there's no need for you to evaluate your experiences. The teacher will do this. Un'altra cosa è quando fate il vostro report, non c'è bisogno che voi diate una valutazione della vostra esperienza. Sarà l'insegnante poi eventualmente a farlo. And so, since there will be three people guiding you in your meditation, so at times there may be slight differences in the instructions, so try to be flexible with this. Siccome ci sono tre persone che guideranno questo ritiro, potrebbero esserci delle leggere differenze nelle istruzioni date e il Venerabile vi chiede di essere flessibili riguardo a questo. And so, in general, we can say that the interviews, almost daily interviews, have a galvanizing effect on your meditation practice. So the fact that you need to report the next day will, to some extent, make you work hard so that you clearly that you have, you observe carefully, you have clear experiences, and then only you have something to report. Quindi questa idea di dover andare ai colloqui tutti i giorni ha un effetto, così dire, galvanizzante, non so se si può dire in italiano. Comunque fa sì che il meditante si impegni durante la giornata sapendo che comunque dovrà riferire quello che ha osservato. Quindi ha questo effetto di incoraggiare un'osservazione più attenta di tutto ciò che accade. Now, during the first few days of a retreat, usually meditators experience a couple of classical difficulties. Among those are sleepiness, wandering mind, physical pains and aches that suddenly come up and are difficult to deal with. And suddenly then, based on the physical pains and also maybe some difficult mental states, some discouragement might arise. Dunque ci sono alcune cose che sorgono quasi automaticamente ai primi giorni del ritiro. Allora, inizialmente la sonnolenza, il torpore, la seconda è l'irrequietezza, una mente un po' agitata, poi c'è il dolore fisico che sorge, and then some difficult mental states. Poi degli stati mentali difficili. And then based on these, discouragement, by the way. E sulla base di questi può sorgere poi un certo scoraggiamento riguardo alla pratica. And so then take the discouragement itself as an object of observation, and sooner or later it will go. In questo caso prendete lo scoraggiamento stesso come un oggetto di osservazione e presto anche questo andrà via. Now, a few remarks, important certain points about balanced practice. Alcuni punti importanti riguardanti una pratica equilibrata. Please make sure that certainly you get enough liquids to drink every day. Assicuratevi di assumere abbastanza liquidi durante la giornata. And then some meditators while on retreat eat very little, and as the retreat goes on they might eat less and less and less, or even decide to fast. Don't go for this. Intensive meditation practice requires a retreatant, or requires that a retreatant eats a moderate amount of food to provide the body with nutrition and strength. Allora può succedere che un meditante già di suo mangi poco e durante il ritiro tenda a mangiare sempre meno fino ad arrivare addirittura a digiunare. E allora questa è una cosa assolutamente sconsigliata, perché la pratica di meditazione richiede comunque una certa energia, quindi è importante mangiare una quantità moderata di cibo. Now, some retreatants allow to become constipated for 3 or even more days. Please tackle constipation soon by taking natural laxatives or by doing exercises that introduce a bowel movement. Un altro rischio che capita ai meditanti è quello di soffrire di una certa stitichezza per 2 o 3 giorni. Venerabile vi consiglia in questo caso di prendere un lassativo naturale oppure di fare esercizio fisico che possa aiutare a muovere un pochino gli intestini. If you don't have laxatives and you need talk to Gianni and Sandra, and I'm sure something could be arranged. Se non avete con voi un lassativo e doveste trovarvi in questa situazione, parlatene con Gianni o Sandra e troveranno una soluzione. When one happens to be constipated for a longer period of time, usually the mind gets somewhat irritated. Quando questo si protrae nel tempo, di solito la mente diventa poi irritata. Now, next point, in the course of an intensive meditation retreat, the need for night sleep will fluctuate, sometimes lessening, sometimes increasing. Un'altra cosa che può capitare durante un ritiro riguarda la quantità di sonno necessaria. A volte può essere poca questa quantità, a volte invece di più. A volte aumenta, a volte diminuisce. And it is not recommended whatsoever to deliberately deprive oneself of sleep or to willfully practice through the whole night. Allora è sconsigliabile sforzarsi di rinunciare alle ore di sonno oppure di nuovo sforzarsi, obbligarsi a meditare tutta la notte. Oh, there are certain points in practice when naturally one gets by with less sleep and can practice much more, so that's okay, but sometimes meditators are not at that point and then try to practice through the whole night, and this can have devastating results. Ci sono delle fasi nella pratica in cui necessario meno sonno, si sente la necessità di dormire di meno e uno può effettivamente meditare per lunghi periodi, Ma se un meditante non è ancora arrivato a quella fase e si sforza invece di, per esempio, meditare tutta la notte, questo può avere degli effetti devastanti sulla sua pratica. Now, some retreatants push through excruciating levels of pain again and again, and certainly this is not necessary. As mentioned earlier on, do feel free to change your posture, but do it slowly and mindfully. Alcuni meditanti spingono molto, nel caso in cui sorga un dolore, e cercano di attraversare eroicamente questo dolore, che è magari un dolore molto forte o lancinante. Non è il caso di farlo, come abbiamo già detto prima, sentitevi liberi di cambiare la postura se il dolore diventa insopportabile. Now, some retreatants unfortunately wrongly assume that thoughts should not arise during Vipassana meditation. This is a wrong assumption. Instead, thoughts should be included as objects of observation. Alcuni meditanti suppongono che i pensieri non debbano sorgere durante la pratica della meditazione. Questa è un'opinione errata. E i pensieri sorgono durante la meditazione e vanno presi come oggetto di osservazione. No, some new retreatants may not be able to sit for the full hour, and certainly in this case, certainly wellness, mindfully, slowly, stretch your legs and then change your posture, stretch your legs and then try to sit again. Alcuni meditanti, soprattutto all'inizio, o principianti, potrebbero non riuscire a stare seduti per l'intera ora della sessione. Allora, in questo caso, sempre molto consapevolmente, potete cambiare la postura o allungare le gambe e poi ritornare alla posizione seduta. And so you will see that certainly in the course of a retreat, gradually the body becomes more flexible, especially the thigh muscles, and certainly then you will find that you can sit for longer and longer periods of time. E scoprirete con l'andare avanti del ritiro che il corpo diventa più flessibile, soprattutto i muscoli delle cosce, e potrete sedervi per periodi più lunghi di tempo. Now, some retreatants unnecessarily put excessive pressure on themselves by entertaining high expectations in terms of attaining the Dhamma or by competing with fellow meditators. Alcuni meditanti si mettono molto sotto pressione, sempre con questa aspettativa di raggiungere particolari risultati nel Dhamma, e a volte si mettono anche in concorrenza con altri meditanti presenti. And this is definitely counterproductive. Instead, take an expectation or a thought of competition as an object, label it, observe it, and know its nature. Questo può essere controproducente. Piuttosto prendete questa aspettativa per i risultati, oppure questo confronto con gli altri, come esso stesso oggetto di osservazione, e cercate di restare su quell'oggetto. Now, some retreatants try to exercise complete control over unwanted states of mind, which of course is not realistic. Alcuni meditanti cercano di esercitare un controllo eccessivo su degli stati mentali difficili, e ovviamente questo non è realistico. And try to observe unwanted states of mind with an allowing attitude of mind. Cercate di osservare questi stati mentali difficili o non graditi con uno stato mentale più accettante. No, again, some meditators push the mind beyond its limits far too hard, into states of extreme fear, worry, guilt, self-judgment, and the like. Alcuni meditanti spingono la loro mente oltre i limiti e arrivano a fare esperienze molto forti di paura, di sensi di colpa, guilt, sensi di colpa, self-judgment, autogiudizio, and cose di questo genere. So please keep your practice balanced. Should you be experiencing extreme levels of fear, depression, anxiety, elation, hyperactivity, etc., kindly inform the teacher without delay. Quindi cercate di mantenere un atteggiamento equilibrato durante la pratica. Doveste avere queste esperienze di grande paura, di angoscia, di ansia, di iperattività, eccetera, parlatene subito con l'insegnante. And as mentioned already last night, kindly observe the various objects of observation that come up in the sitting meditation, in the walking meditation, and general activities with a calm, detached, relaxed, and yet alert attitude of mind. E quindi, come abbiamo già detto ieri, cercate di osservare tutti gli oggetti che sorgono a livello del fisico o a livello mentale con un atteggiamento della mente calma, rilassata, and alert attitude of mind. Ecco, quindi rilassata e calma, ma allo stesso tempo vigile e sveglia. Now, I think the last point is, in the course of Vipassana meditation, many different experiences may take place. Each person will experience meditation in a slightly different way. Nel corso della meditazione Vipassana ci sarà una varietà di esperienze che sorgono e ogni meditante avrà questa esperienza in maniera diversa da un altro. And it is important not to expect certainly anything how the practice certainly should certainly unfold. È molto importante non farsi delle aspettative rispetto a come la pratica dovrebbe svilupparsi. And how the practice should unfold based on previous theoretical knowledge or based on others' experiences or based on one's own former practice. E spesso queste aspettative sono basate su delle conoscenze pregresse oppure su delle cose raccontate da altri meditanti o delle cose acquisite attraverso delle letture e via di seguito. Now, the whole range of human experiences can come up during one's meditation, and any object, no matter what it is a great field of observation and provides an opportunity to learn and gain wisdom. Quindi qualsiasi cosa nell'ambito delle esperienze umane potrebbe sorgere durante la pratica di meditazione e qualsiasi cosa può essere presa come oggetto e può condurre ad una maggior saggezza. And I think probably the very last point is the meditation is a gradual process. So don't expect to be a perfect meditator, an expert meditator from day one onwards. La meditazione è un processo, la pratica, insomma, è un processo graduale, quindi non vi aspettate di essere già dei meditanti perfetti o esperti dal primo giorno della pratica. And you will see gradually as you'll be going on with your meditation practice, and then you'll be learning along the way, your skills will improve, and things certainly will get easier. E vedrete che lungo la pratica imparerete delle cose lungo il percorso, anche le vostre abilità si svilupperanno. That's the last part. Okay. Your skills will get better. Yeah, your skills will get better, and then it will get easier. Ah, e poi diventerà tutto più facile. So this is it in terms of the instructions for sitting, walking meditation, general activities, and interviews, and a few remarks about balanced practice. It's a lot of instructions, but each and every single point of these instructions are based on experience, and kindly take these instructions to heart and try to apply them to your meditation practice as much as you can, and you will benefit from them. Ok, quindi concludo qui questo discorso sulle istruzioni che hanno riguardato la pratica seduta, la pratica meditata, le attività giornaliere, come comportarsi nei colloqui e come mantenere un equilibrio nella pratica. E, sappiate che questi consigli sono basati sull'esperienza, quindi vi invito a prenderli a cuore e vedrete che ne avrete dei grandi benefici. Father. That's it. Sadhu, sadhu, sadhu.